La vicenda dei sassi lanciati dai cavalcavia ancora una volta dimostra perlomeno una cosa: che le idee, buone o cattive che siano, meglio le cattive che le buone, hanno un carattere epidemico. L'informazione crea l'evento. Funestamente è andata così per la droga, per certi omicidi particolarmente efferati, per psicosi e follie collettive. Un gesto, grave quanto si voglia, è deliberato in quanto è comunicabile. Il tragico caso di Tortona, da cui ha preso le mosse un fenomeno imitativo di proporzioni notevoli che non potrà placarsi con la semplice repressione, conferma la tesi fin nei suoi meccanismi più reconditi. Accusati o quantomeno sospettati sono tre giovani fratelli, 18, 23, 25 anni. Uno fa saltuariamente l'imbianchino, gli altri due sono disoccupati. In famiglia, a quanto pare, sono parecchi. Altri quattro fratelli, mi pare, un padre malato, una madre che tira su qualche lira pulendo le latrine della locale stazione ferroviaria. Non dovrebbe essere il massimo della vita, e dunque riesce comprensibile che negli ultimi mesi non siano riusciti a pagare la bolletta del telefono, tanto che la società dei telefoni gli aveva tagliato i fili. Meno comprensibile risulterebbe il fatto che i tre giovani sospettati possiedano tutti e tre un telefono cellulare. Meno comprensibile se non avessimo capito che il primo e più sicuro delitto stia proprio nella forma in cui si esprime la loro esigenza di comunicazione e nel modo in cui questa società, non quella dei telefoni, la società tutta, questa società ha cercato di soddisfarla.